peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi ascolteremo tre dischi, tre lavori che si possono definire tutti riconducibili a quello che può essere definito mainstream e in sostanza che abbraccia ormai in pratica tutto quello che è il consolidato della storia del jazz. E naturalmente poi i vari personaggi, a seconda del loro talento, esprimono poi delle particolarità, delle ricerche, delle micro ricerche o dei passi avanti che vengono condotti in una direzione piuttosto che nell'altra, o con una attenzione maggiormente rivolta a un'armonizzazione particolare, oppure più legati a quello che è anche un ambito più di ricerca. Una larga fetta della produzione discografica viene, o comunque della produzione, perché dei dischi forse si fa anche ora già fatica a parlare, ma insomma della produzione rappresentare da parte dei grandi talenti o dei grandi vecchi del jazz, che trovano attraverso incontri occasionali, più o meno occasionali tra di loro, trovano momenti nei quali si esprimono e che riescono comunque a dare vita a prodotti più o meno di qualità. Un lavoro di buon livello è un lavoro uscito l'anno scorso, guidato da quattro personaggi. È anche interessante vedere le diverse generazioni che raccolgono questi quattro personaggi. Si tratta di Lee Konitz, un grande vecchio che fa parte ormai della storia del jazz, sicuramente tra i vecchi della storia del jazz che ha un'attività musicale più longeva, si parla della seconda metà degli anni 40 e tuttora è attivo nella produzione di lavori sia per orchestra che anche appunto come ospite o con piccole formazioni. Naturalmente il suo linguaggio è quello del cool, che però viene ricondotto ormai a una... si può posizionare quello che era il cool della fine degli anni 40 in un contesto che dal punto di vista stilistico lo si può definire maggiormente inserito in quelli che sono stati poi i linguaggi delle ultime generazioni del jazz. Altro protagonista è Bill Frisell. Frisell è una generazione sicuramente successiva, ma ha ormai una vasta attività, ormai ha consolidato una vasta attività e che l'ha visto anche protagonista per un lungo periodo di un ruolo di ricerca, molto attivo anche nel mettersi in discussione. Attualmente è ormai definibile come un bravo chitarrista che sempre con grande eleganza e con zampate geniali va a caratterizzare il brano al quale partecipa. Gary Peacock, più o meno una generazione forse tra le due, Gary Peacock che inizia negli anni 60 come musicista, un controbassista che faceva parte di quella che era l'avanguardia, e poi forse è più conosciuto attualmente negli ultimi 30 anni come partecipante del trio di Keith Jarrett, e sicuramente ha un suono e un fraseggio ben riconoscibile. Ultimo della serie, Joe Baron, batterista che nasce alla fine degli anni 80, poi più o meno forse insieme o poco dopo Bill Frisell, e che era connotabile in quello che è stato un po' tutta l'avanguardia dei primi anni 90. E attualmente ormai è diventato un mostro sacro che si può benissimo inserire in questo quartetto di All Star, che è definito enfant terrible. È una registrazione questa fatta al Blue Note, dalla quale ascolteremo un paio di brani. Sono tutti standard, sono tutti standard della storia della musica americana e quindi anche ben riconoscibili. Ascoltiamo il primo con What is this thing called love? E poi successivamente ascolteremo un altro I Remember April, un'altra degli standard più che conosciuti. Thank you. Thank you. Questo era un quartetto di All Star, quindi Conis, Bill Frisell, Gary Peacock e Joe Baron, Enfant Terrible, registrato in un concerto dal vivo, è uscito l'anno scorso per l'etichetta Half Note, quindi un lavoro di consumo, di alto livello, sempre ascrivibile a questo tipo di attenzione, anche un lavoro uscito un paio d'anni fa che devo dire mi era sfuggito, che l'ho riscoperto, che vale la pena perlomeno sentire, di Scott Colley, contrabbassista di indubbie qualità, un suono molto bello ed è uno dei sidemen più richiesti anche in tutto quello che è il mondo del mainstream in generale. E sempre alla guida di formazioni di alto livello, ma diverse tra di loro, quindi continuamente cambia la propria formazione e anche il risultato di conseguenza sempre di ottimo profilo, ma lo stile cambia anche a seconda dell'apporto che i vari musicisti possono dare. Un punto di contatto con il lavoro precedente è la presenza, ad esempio, in questo quintetto di Bill Frisell alla chitarra, che a conferma di quanto dicevo prima è anche una sorta di ospite d'eccezione in vari contesti, anche i più diversi. Un musicista che lo accompagna, Scott Colley, da tempo, che è quasi sempre presente nelle sue formazioni, è Ralph Alessi, o Alessi, alla tromba. Ecco, il pianoforte e la batteria sono costituiti da due personaggi di un profilo interessante in questo contesto. Si tratta di Craig Taborn al pianoforte, che ancora una volta si conferma come un musicista in grado di piegarsi ad ogni contesto e in ogni contesto esprimere una propria personalità. Anche in questa occasione diventa un elemento importante, distinguibile peraltro, anche il suo fraseggio colto è determinante anche per la riuscita del lavoro nell'insieme. Alla batteria, a mio avviso, uno dei batteristi più bravi e più interessanti dell'ultima generazione. Si tratta di Brian Blade, musicista che ha legato poi in molte occasioni perlomeno le sue sorti anche al gruppo di Wayne Shorter, o perlomeno nel gruppo di Wayne Shorter si può ascoltare ai massimi livelli. È un percussionista con un drumming eccezionale, una poliritmia ricchissima e sempre una vitalità, una perfezione nella struttura che suggerisce, quindi musicista tutto tondo. Quindi una formazione naturalmente di alto livello. Ne ascoltiamo un paio di brani, i primi due, che sono peraltro 10 brani, tutti composti da Scott Colley. Thank you. Questo era il quintetto di Scott Colley, un disco intitolato Empire, uscito nel 2010, con una formazione di grande rilievo, oltre a Scott Colley al contrabbasso, Bill Frisell alla chitarra, Ralph Alessi alla tromba, Craig Taborn al pianoforte e Brian Blade alla batteria. Decisamente un disco riuscito, che poi attraversa i vari umori di quello che può essere stata anche la storia del jazz degli anni 60, 70. Si sentono sia le voci di Coltrane o di un certo informalismo di Coltrane, ma anche, che ne so io, della Mavis New Orchestra. E, ecco, un altro lavoro sempre uscito, questo invece di recente, sempre ascrivibile appunto alla mainstream, a quello che si può definire ormai un mainstream, è un lavoro molto recente, l'ultimo lavoro di Dave Binney, sassofonista, che peraltro ha in vari casi collaborato con Scott Colley. È un sassofonista che soprattutto tra la fine degli anni 80 e tutta la prima metà degli anni 90 ha avuto un'incidenza molto forte, aveva un carattere compositivo particolare che ha prodotto molti lavori interessanti. Era una sorta di punto di contatto tra quello che può essere appunto un linguaggio più hard bop e quello che era l'esperienza che stava conducendo ormai da tempo la bass music di Steve Coleman. Binney ha un fraseggio spigoloso, molto agile col suo contralto, è attualmente ormai considerato come dire, un musicista affermato e consolidato. Con lui hanno iniziato la propria attività musicisti come Donnie McCaslin o anche come altri come Adam Rogers alla chitarra. Ecco, questo ultimo lavoro ormai da tempo si può dire che Binney è approdato a linguaggi più facili, più tranquilli, con strumenti con schemi compositivi ormai consolidati. Quest'ultimo lavoro cerca anche una posizionatura un po' diversa, soprattutto per la formazione del gruppo, perché la formazione è composta naturalmente oltre che da Dave Binney al sax contralto, troviamo un punto di contatto col lavoro precedente con il pianoforte di Craig Taborn, che anche in questo caso prende assoli importanti e dà un carattere più legato all'avanguardia o a quantomeno a un'attenzione di musica novecentesca, insomma, nella sua grande qualità pianistica. Al contrabbasso Edwin Ostwick, un contrabbassista, anche questo, compositore e leader anche di arrangiatore, leader di orchestra, che abbiamo anche ascoltato a Salpinaz, abbiamo già proposto, è uno dei musicisti della nuova generazione più interessanti e che è anche sicuramente un ottimo contrabbassista. Poi alla batteria un altro dei personaggi emergenti, il batterista appunto, percussionista Tishan Sorey, batterista di Harry Treadgill, ma anche di Steve Coleman, ma anche di Steve Lehman, quindi molto collocato in quello che è un certo tipo di avanguardia, diciamo quello che è stato l'evoluzione dell'ambient music, che quindi prende anche le nuove tendenze della musica di Chicago e di New York. E Sorey, ormai consolidato come batterista di avanguardia, non ha problemi anche a proporsi con linguaggi diversi, dà una ricchezza timbrica e ritmica che sicuramente dà una marcia in più a tutto il quartetto. È un lavoro questo uscito sempre per l'etichetta Criss Cross, che peraltro è l'etichetta che sta producendo un po' ormai da parecchi anni tutti i lavori di Dave Binney, e che può essere definita come una delle etichette discografiche più legata proprio a questo stile musicale, che è mainstream, cioè molto legata a un neo-hardbop, a questa, spesso anche a musicisti più attenti all'estetica che non alla ricerca, sicuramente. Però ogni tanto diciamo che escono proposte diverse. Questa, pur mantenendosi nel proprio stile, Binney si propone con tentativi anche di modifica di quello che può essere una strada ormai consolidata. Il disco è intitolato Lift the Land e ne ascolteremo adesso un brano, poi commenteremo un attimo. Questa è una composizione sempre di Dave Binney. We'll be right back. Questo era, direi che questo era un brano che è una conferma dello stile compositivo e della costruzione delle composizioni di Dave Binney. Questo adesso ne ascolteremo un altro che anche in questo caso ha una particolarità di dipanarsi. Spesso Binney ha nelle sue costruzioni diciamo, il brano si evolve anche in momenti diversi, sempre coerenti tra di loro, con questa sorta di diagonalità, di sensazione un po' estranea a quello che può essere anche una definizione di quello che è l'armonia. Ascoltiamo un altro brano preso da questo disco, lo ricordo, il quartetto di Dave Binney, il disco intitolato Lifted Land. Thank you. Ricordo, questo era il quartetto di Dave Binney nell'ultimo lavoro uscito recentemente. E abbiamo ascoltato due brani da questo disco. Il primo che avete sentito rappresenta una continuità con quello che è la struttura solita delle composizioni di Binney, e anche un'evoluzione piuttosto coerente a quello che è l'esperienza passata di Binney. In questo secondo brano invece rappresenta un tentativo diverso, un linguaggio diverso, una tensione soprattutto dovuta al pianoforte di Craig Taborn, che peraltro ha un solo magnifico, che si spinge su un territorio che è più di ricerca, più di musica diverse. E poi il drumming di Tiffany Sorey, che si dimostra ancora una volta un percussionista, un batterista straordinario. Quindi la tessitura e anche la composizione, perché sicuramente ha un lirismo intenso e di alto livello questo brano. Quindi la costruzione sulla quale può contare il fraseggio sempre elevatissimo di Dave Binney è di grande livello. Questo è anche l'ultimo ascolto per oggi, lo ricordo, un disco uscito in questi giorni dalla Criss Cross, di Dave Binney, intitolato Lifted Land. Questo è tutto, possiamo salutarci alla prossima. Vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare o comunque trovare i dati discografici nel nostro sito radiocittafujiko.it alla sezione musica. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.